4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buona serata amici di Quattro Ruote e Dintorni e bentornati al programma di motori. Oggi una puntata quasi monografica interamente dedicata al Salone di Francoforte. In arrivo il 22 settembre prossimo, la prossima settimana, un allegato del Sole 24 Ore molto importante sul salone più significativo di tutto l'anno nel settore automotive, quello in attuale svolgimento dal 17 al 27 settembre in terra germanica, appunto a Francoforte. Inizieremo con Daniele Sparisci di Quattro Ruote, che è stato l'inviato del mensile. Caro Daniele, intanto buonasera e bentornato. Buonasera a te Roberto e a tutti i tuoi ascoltatori. Dopo di te avremo la voce, sentiremo la voce del direttore generale di Renault Italia, Jacques Busquet. Ci parlerà del gruppo Renault-Nissan, particolarmente interessato al discorso zero emissioni, e poi ancora andremo avanti con la prova della Volkswagen Polo per chiudere con il trofeo Aido per auto storiche, per cui direi tanti temi interessanti. www.radio24.it si affianca come sempre a quattroruote.it per maggiori informazioni, e poi il modo per raggiungerci e raggiungere anche il nostro avvocato che tornerà sabato prossimo, quattroruote@radio24.it. Caro Daniele, partiamo da Fiat. Che cosa hanno portato gli italiani di buono e di nuovo a Francoforte? Beh, partiamo insomma con la messa in scena del matrimonio tra Fiat e Chrysler. Per la prima volta i due gruppi erano sotto lo stesso tetto, quindi avevano uno stand unico, una regia unica curata da Torino, e anche un segno di importanza, un grande stand. Ma sicuramente per la Fiat una novità principale è stata la Punto Evo, continua quindi la saga della Punto con un aggiornamento importante, un aggiornamento che riguarda lo stile, riguarda soprattutto gli interni. Altre innovazioni sono sicuramente il Multi R che ha debuttato sulla Mito ed era lo star, e anche l'edizione quadrifoglio verde della Mito, un'edizione più cattiva con parecchi cavalli a disposizione. Insomma, parliamo certo di parecchie novità. E sempre per rimanere in tema di gruppo, come non citare la Ferrari 458 Italia, una vera star del salone, insieme alla Maserati Gran Cabrio, che è la prima quattro posti della casa del Tridente. Devo dire, è piaciuta tantissimo al pubblico vedere. È pubblicata sul web e sta per uscire anche nei giorni stampa. Nei due stand sia della Ferrari che della Maserati c'era un affollamento incredibile, quindi mi domando che cosa sarà nei giorni dedicati ai visitatori. Anche i tedeschi apprezzano moltissimo poi le due case italiane, ma passiamo ai tedeschi stessi, visto che erano padroni di casa, BMW e Mercedes. Daniele, tedeschi padroni di casa, come al solito stand giganteschi, grandi come cattedrali, con ascensori, e la BMW ha presentato la X1, la piccola SUV che andrà sul mercato a breve, che è la sorella minore di X5 e X3, una macchina intelligente, una macchina che potrebbe ritagliarsi una grande fetta di mercato in un momento in cui le SUV di grandi dimensioni sembrano patire. Poi un'altra novità importante è stata sicuramente la Concept Vision Efficient Dynamics, sì, che mette in mostra le tecnologie a basso ambientale della BMW, tra cui un inedito motore turbo diesel a tre cilindri. Bene, per quanto riguarda invece Mercedes, so che c'era una top car che ha fatto sognare tutti. Sì, star assoluta della Kermesse insieme a tante altre è stata proprio la SLS AMG, Mercedes SLS AMG, l'Ali di Gabbiano, un ritorno che riprende le linee leggendarie della SL del 54, però un ritorno in salsa veramente sportiva, perché qui non parliamo di un classico ma di una supercar con 520 cavalli a disposizione. Insomma, una macchina che è stata studiata e concepita dalla Mercedes dopo il divorzio con la McLaren, e quindi una macchina che andrà a sfidare sul terreno le altre supercar, tra cui Ferrari, Lamborghini e Porsche. Bene, chiudiamo il discorso tedesco con Volkswagen. Ecco, sullo stand di Volkswagen è andato in onda il pragmatismo ma anche la visione che è per il futuro. Il presidente Martin Winterkorn ha detto la corsa verso l'elettrico è una maratona, non è uno sprint, quindi in quest'ottica ha mostrato la piccola app, la City Car, che sarà prodotta tra due anni in versione elettrica, ponendo l'accento sulla produzione che inizierà nel 2013. si tratta di una macchina molto piccola, molto compatta. È tornato in scena una concept car, la L1, 100 km con un litro, che era stata già presentata nel 2002, sette anni fa, sì, in un'altra edizione di un salone internazionale, ma è un remake completo, perché qui si parla di una macchina innovata. E poi tantissime novità di prodotto, tra cui la Polo tre porte e molte altre, anche nello stand Audi, come la nuova A5. Certo, so che ha avuto grande successo, poi avevano presentato anche la Cabrio S5, meravigliose vetture davvero da sogno. Senti Daniele, i giapponesi come erano presenti, quanti e in che termini? Allora, i giapponesi erano presenti in una pattuglia ridotta, e grandi assenti di questa manifestazione sono state case del calibro della Honda, Nissan o Mitsubishi, Daihatsu, solo per citarne alcune. Dobbiamo anche dire che l'aria di crisi a Francoforte si è sentita, perché alcuni spazi comunque sono rimasti vuoti in un salone che tipicamente doveva addirittura scremare le richieste, aveva troppe richieste rispetto all'offerta disponibile. Però i giapponesi della Toyota sono scesi in campo, sia Toyota che Lexus, presentando varie novità, tra cui la Land Cruiser nuova, tra cui anche la Auris ibrida, sarà la prima macchina di serie ibrida prodotta in Europa, sarà prodotta in Inghilterra, e presentando anche una concept della Toyota Prius plug-in, una Prius modificata per poter essere ricaricata anche tramite la presa della corrente. Molto bene, avete sentito quante novità, ne riparleremo ancora, ma fino al 27 settembre è in attuale svolgimento al Salone di Francoforte, il 22 esce, come vi dicevo prima, l'allegato del Sole 24 Ore dedicato al Salone di Francoforte. Daniele Sparisci di Quattro Ruote, grazie per ora e buona serata. Grazie a te, buona serata a tutti i tuoi ascoltatori. Quattro Ruote e dintorni. È appunto in attuale svolgimento il Salone di Francoforte, dicevamo prima uno dei più importanti saloni del mondo, e la casa, una delle due o tre case costruttrici che si è distinta di più nei primi giorni di apertura, soprattutto quelli dedicati ai giornalisti, è sicuramente Renault, insieme all'accordo con Nissan, o come la chiamano loro, Nissan, soprattutto per il suo prodotto che merita attenzione del futuro, quello completamente a emissioni zero. Renault ha dichiarato vuole essere il gruppo più vicino alla nuova era, cioè il primo ad arrivare verso le emissioni zero, si parla di combustione totalmente elettrica. Allora lo chiediamo soprattutto al direttore generale di Renault Italia, con cui siamo in collegamento, Jacques Busquet. Buonasera direttore. Buonasera, sì, grazie. Ci fa capire, allora fa capire ai nostri ascoltatori, questo impegno di Renault verso che cosa è volto soprattutto e perché? Sì, come sa, il gruppo Renault-Nissan è già impegnato da tempo in una strategia che consiste a proporre delle macchine con dei motori a emissioni CO2 sempre più bassi. È un discorso che va avanti, e noi lo chiamiamo la strategia Eco2, e facciamo dei progressi regolari su questo tema. È per questo che abbiamo presentato anche in particolare a Francoforte delle macchine anche che vanno sotto la barra dei 100 grammi di CO2 al chilometro. Questo è un impegno che si va avanti, però abbiamo dovuto riconoscere che questo ha un limite, cioè c'è un momento dove le emissioni di un motore termico non si possono abbassare più di tanto, quindi certo. È per questo che un po' di tempo fa il gruppo, l'Alleanza Renault-Nissan, ha deciso di andare su una strategia per portare avanti la tecnologia che veramente si avvicina di più al zero emissione, quindi la tecnologia elettrica. È per questo che abbiamo lavorato a grande velocità, direi, sugli ultimi anni e mesi per portare avanti queste soluzioni innovative e veramente forte, per proporre ciò che abbiamo presentato e che presentiamo in questi giorni a Francoforte, cioè una gamma completa di quattro veicoli elettrici che hanno come ambizione di proporre veramente la soluzione ultima in termini di emissioni, quindi il zero emissioni. Senta, direttore, è chiaro che lo zero emissioni sarebbe ovviamente per tutti noi, per l'ambiente, la cosa migliore. Le faccio una domanda precisa. Quando, secondo lei, vedremo davvero i veicoli sulla strada completamente a emissioni zero, considerando che non conta solo a voi costruttori, ma anche alla rete cosiddetta di approvvigionamento, cioè dove caricare tutte le batterie? Assolutamente, allora questo è il punto, diciamo, veramente diverso rispetto alle tecnologie di oggi, che ci vuole per avere un parco di veicoli elettrici, ci vuole una rete di ricarica, questo è semplice. Quindi infatti la velocità della crescita del parco elettrico nel futuro dipenderà direttamente di queste capacità che avranno le enti governativi e le società che producono e distribuiscono l'elettricità, per avere una rete di distribuzione di ricarica che sia abbastanza forte per poter rappresentare, proporre ai clienti normali una soluzione di una macchina elettrica che non dà più fastidio, direi, che una vettura classica di oggi per quanto riguarda la ricarica in termini di benzina o di gasolio. Allora, per rispondere alla sua domanda, naturalmente prenderà un certo tempo e nessuno ha mai detto che tra 5 anni tutte le vetture del mondo verranno vendute con la tecnologia elettrica. Si tratta sicuramente in un primo passo di portare avanti questo discorso nelle zone urbane, dove si sa che l'80% dei tragitti di ogni giorno fanno meno di 60 km, che è esattamente ideale per una macchina, una vettura con tecnologia elettrica, perché le macchine che proporremo avranno un'autonomia di più o meno 150 km. Quindi sarà un andamento progressivo che dipenderà molto, come dicevo, della capacità, direi, di ogni paese a sostenere e a promuovere questa tecnologia, che permetterà di andare avanti a una certa velocità. Però bisogna accettare il fatto che sarà una delle tecnologie che sarà proposta ai clienti. Alla fine decide sempre il cliente, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Noi siamo lì per proporre delle soluzioni, e alla fine decide il cliente cosa è la soluzione migliore per lui o per lei. Giustamente, questo avviene proprio così. Senta, torniamo al termico invece, ai motori termici. Che cosa c'è da vedere di importante nello stand Renault a Francoforte quest'anno? Allora, come dicevo, sono veramente le soluzioni che portiamo già avanti da un po' di tempo, cioè tutta la gamma dei motori che chiamiamo Eco2, che sono per definizione motori che emettono meno di 140 grammi di CO2 al chilometro, e lì abbiamo fatto un bel passo avanti, direi, perché sullo stand possiamo vedere una Clio che emette meno di 100 grammi e anche una Twingo che emette meno di 95 grammi, e questo può sembrare un po' dei numeri così un po' strani, però sono veramente dei passi avanti molto forti, perché ad esempio, per fare un paragone, sono dei livelli di emissione che sono sotto i livelli di emissione di un motore ibrido, quindi vuol dire che veramente avere un motore termico che emette così poco è quasi il massimo di ciò che si può fare. Certo. Ne siamo molto fieri, perché è un discorso che ci vuole, sul quale l'impegno non deve mai rallentarsi, e questo è una cosa che va naturalmente nel senso positivo anche. Qual è il modello più apprezzato in questi giorni nel vostro stand? La Clio? Allora, la Clio, però siamo in fase di rinnovamento di tutta la gamma medio, che chiamiamo noi la gamma M1, quindi la famiglia Megane e la famiglia Scenic, e non più tardi che questo weekend lanciamo in Italia la nuova nostra Megane Sport Tour, che sappiamo è molto attesa da parte del pubblico italiano, che ha già dato un bel successo alla versione precedente, e secondo me avremo veramente anche lì un bel traffico in questo weekend in tutte le concessionarie in Italia, perché è veramente una vettura, primo, veramente bella, due, secondo punto, molto avanzata anche dal punto di vista della tecnologia dei motori, quindi abbiamo anche lì su questa macchina tanti motori con basse emissioni, e poi come sappiamo bene il concetto di vetture così che gli americani chiamano station wagon rimane una cosa molto popolare, molto apprezzata in Italia. Italia, quindi a parte la Kia, secondo me avremmo anche una bella trazione su questo modello qua. Megane e Scenic, molto bene. Ultima domanda e ci salutiamo. Quali sono le vostre previsioni per il finale di questo 2009? Nell'anno 2009 perderete anche voi rispetto all'anno scorso, visto che questo è stato un anno difficile, e se sì, quanto perderete in percentuale? E infatti abbiamo veramente... In Italia, direttore, sì, le chiedo. In Italia. Sì. Abbiamo completamente invertito la tendenza lì durante l'estate, quindi abbiamo avuto un grande successo con i nostri prodotti durante la primavera e l'estate, naturalmente sostenuto dai premi del governo con la rottamazione, e penso che se riusciamo a consegnare tutte le macchine che verranno ordinate dai clienti fino alla fine dell'anno, saremo capaci di consegnare un po' più di volume dell'anno scorso, che sicuramente sarebbe un bel exploit, direi, perché all'inizio dell'anno non pensavamo di fare così tanto. Quindi, per rispondere alla vostra domanda, non pensiamo di vendere meno macchine in 2009 rispetto al 2008, però un po' di più. Molto bene, grazie per ora al direttore generale di Renault Italia, Jacques Busquet, a presto. Grazie. E chiudiamo così, con la voce del direttore di Renault Italia, il discorso Salone di Francoforte. Vi ricordo però che il 22, il Sole 24 Ore in edicola uscirà con un allegato interamente dedicato al Salone, per cui non solo in previsione, come fanno tutti, del Salone con qualche anticipazione, ma addirittura con i commenti dei primi giorni di tutte le notizie uscite nei primi giorni del Salone di Francoforte come massimo appuntamento mondiale. Quattro ruote e dintorni. Ed ecco allora che giunge puntuale la prova, non in apertura della nostra trasmissione questo sabato per via dell'importanza del Salone di Francoforte, però non cambia nulla nella sostanza. Abbiamo al telefono Andrea Sansovini di Quattro Ruote. Caro Andrea, intanto buonasera e benvenuto. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Oggi è protagonista insieme ad Andrea la Volkswagen Polo nuova, in questo caso il modello è il 1004 Highline che avete provato, il resoconto è a pagina 126 di Quattro Ruote in edicola. Dobbiamo fare come sempre il riassunto di questa prova, ma ti chiedo innanzitutto le tue impressioni personali, visto che trattasi di un modello storico per la casa tedesca. Ma le mie impressioni personali sono molto buone, la macchina è piaciuta in realtà a tutti quelli che l'hanno guidata qui in redazione, di solito ce le scambiamo per appunto avere diversi pareri e punti di vista, oltre poi ovviamente a giudicarla in base alle prestazioni della pista. È una vettura che è molto agile, comoda ed è migliorata sotto molti aspetti che poi vedremo. Bene, questo per introdurre la scheda che sta per arrivare, ci racconta le caratteristiche principali di questa Volkswagen Polo. Ben rifinita, la nuova Polo si presenta al pubblico come un'auto di categoria superiore. Lunga poco meno di 4 metri, la Baby Golf sfoggia tante qualità, fra cui un'estetica accattivante senza strafare, un immediato feeling al volante e soprattutto consumi davvero ridotti. Si prepara così a lanciare la sfida alle numerose rivali, anche grazie a un prezzo concorrenziale. Queste le caratteristiche principali. Nome: Volkswagen Polo Sport 1004 Highline. Carrozzeria 5 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 3,97 m, larghezza 1,68 m. Peso 1550 kg. Motore anteriore trasversale 4 cilindri in linea. Potenza 85 cavalli. Trasmissione, trazione anteriore, cambio manuale a 5 marce. Prezzo 16.051 euro. Allora, queste erano le caratteristiche principali della Volkswagen Polo. Iniziamo dall'estetica innanzitutto, dal design, come sempre guardarla da fuori attraverso i nostri microfoni. Quindi monta gli occhi sul nostro microfono, caro Andrea, e descrivici questa nuova Polo, in cosa cambia rispetto al passato. Ma innanzitutto cambia nelle dimensioni, perché è arrivata ormai ai fatidici 4 metri. Dico fatidici perché sono la quota a cui sono arrivate tutte le concorrenti nel giro degli ultimi anni, dalla Fiat Punto o Grande Punto, Peugeot 207, Renault Clio, Opel Corsa e ultimamente anche la Ford Fiesta. Anche la Polo ora arriva a un soffio dai 4 metri, in realtà è 3,97 appunto, e quindi equivale più o meno a una Golf di una quindicina d'anni fa. E il design ricorda molto quello della nuova Golf, soprattutto nella parte frontale, il nuovo design abbastanza fatto di tagli netti. Sì, a tagli netti, ma tutto corrisponde a quella che è un po' la filosofia di, della maggior parte, almeno dei gruppi automobilistici, quindi identificare una filosofia, una linea di design e a quella naturalmente correlare tutti i propri modelli, l'abbiamo visto in BMW l'ultima volta qualche settimana fa. Senti, parliamo invece di come va questa auto con un Euro 5, 4 cilindri benzina, vi ricordo 85 cavalli il suo 1.4, Andrea. È un 1.4, quindi non ci si possono aspettare prestazioni da piccola, certo, bomba, piccola sportiva, però ha una buona accelerazione in linea con le concorrenti, quindi fa uno scatto da 0 a 100 km all'ora in 12 secondi e 4, ha un'ottima ripresa in quinta, ecco, ricordiamo che la marcia più alta era quinta e non ha la sesta, e le prestazioni sono decisamente buone, si guida bene su strada, nei test di stabilità va molto bene anche grazie al controllo elettronico della stabilità che è di serie su tutta la gamma di Polo. Non consuma tanto, tra l'altro, soprattutto inquina poco perché sono 139 grammi di CO2 messa nell'aria ogni chilometro percorso, per cui i dati sono buoni. Andrea sta preparando i pregi e i difetti con i commenti, intanto ci ascoltiamo e ci gustiamo la pagella. Posto guida, perfetto. Sedile e volante si regolano in un attimo e ci si sente su un'auto di categoria superiore, 4 stelle e mezzo. Finiture. Difficile trovare di meglio in un'auto di questa categoria. La I-Line, poi, è la più lussuosa, 4 stelle e mezzo. Comfort. Silenziosa e comoda pure nei viaggi in autostrada. Le sospensioni filtrano bene, ma dietro si salta, 4 stelle. Su strada, la Polo è sicura negli inserimenti in curva e nei nostri test di stabilità l'ESP interviene bene, 4 stelle. Consumi. A 90 km all'ora costanti percorre 21,3 km con un litro di benzina, bene anche in città e in autostrada, 4 stelle e mezzo. Allora, questa era la pagella di questi voti. Mi piaceva chiederti un approfondimento su quel comfort. Dice le sospensioni filtrano bene, ma dietro si salta. Cosa significa, Andrea? Sì, significa che come molte auto il passaggio sugli ostacoli del nostro tracciato di comfort mette un pochino in difficoltà soprattutto il retrotreno. Noi abbiamo notato che soprattutto sugli ostacoli rigidi e secchi come il gradino o i tombini l'accelerazione verticale che si registra proprio sui posti posteriori, sulle ruote posteriori è molto più netta. Decisamente. Allora chiudiamo con i pregi e i difetti della nuova Volkswagen Polo. Sì, i pregi sono già emersi prima con le prestazioni. Il pregio principale è sicuramente quello dei consumi bassi di questo 1.4. Alle andature costanti si superano i 20 km con un litro, ma anche in città va molto bene. L'altro pregio è quello tipico di molte Volkswagen e di molte auto tedesche, è di avere delle finiture davvero ottime. Per quanto riguarda i difetti, invece, ci ha stupito un difetto in particolare, e cioè quello di non avere i comandi dell'autoradio al volante. Ormai molte auto, anche tra le piccole, tra le utilitarie, offrono, almeno tra gli optional, questi comandi della radio, che sono molto comodi per non staccare le auto dal volante. Sulla Polo dicono che arriveranno in un secondo tempo, ma per il momento non sono disponibili. Molto bene, grazie per ora ad Andrea Sansovini di Quattro Ruote, a presto e buona serata. Buonasera. Allora, salutato Andrea Sansovini, con cui abbiamo provato la nuova Volkswagen Polo, chiudiamo la nostra trasmissione con il trofeo Aido. Più volte quest'estate abbiamo parlato di trofei di auto storiche, nella convinzione intanto che sia interessante perché sempre di più sono gli appassionati di auto storiche, ma poi perché ho notato, avendo partecipato l'anno scorso, anzi 2 anni fa, ad un trofeo in Francia particolarmente importante, il Tour Auto 2007, che la gente impazzisce anche fuori dai nostri confini, tanto che attira pubblico quando si trova in regioni vicine al confine, anche per esempio in questo caso austriaco, piuttosto che in Francia succedeva per quanto riguarda gli italiani. Ecco, questo è il mondo delle auto d'epoca, delle auto storiche, un mondo brillante che ha conosciuto meno tra l'altro la crisi dell'altro settore automotive generale, e il 26 e 27 settembre 2009, quindi fra pochissimi giorni, si terrà a Gardone Valtrompia, cioè la partenza, il trofeo Aido. Ce ne parla il presidente dell'Aido, l'ingegner Luigi Bernardelli. Ingegnere, allora buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Lo porta direttamente nel nome, ma diciamo subito la finalità, la bella finalità benefica di questo trofeo. Ma il trofeo Aido è una gara di auto storiche che è nata 12 anni fa da alcuni appassionati che hanno deciso di dedicare all'Associazione Italiana Donatori di Organi la loro passione per le auto storiche. Abbiamo così organizzato una gara di regolarità, per cui è una gara che segue le regole della CSAI, di regolarità per auto storiche, che ormai è al 12° anno. Il perché l'ha già accennato lei: le auto storiche, soprattutto quando sono di buona qualità, come crediamo le nostre, attirano molta gente per le strade. La nostra finalità è quella di diffondere gli ideali della donazione degli organi e ricordare a tutti quelli che assistono alla nostra manifestazione sulle strade, nelle città e nei paesi che attraversiamo, che la donazione degli organi è un atto dovuto alla nostra civiltà. La nostra civiltà, come tutte le civiltà, si reggono sulla solidarietà. Quando io ho un bisogno devo avere la società civile che mi aiuta a risolverlo. Se noi siamo disponibili alla donazione degli organi, sicuramente quando avremo bisogno di un organo potremo trovarlo, altrimenti ci saranno molte difficoltà a risolvere molte malattie. Questo va detto ed era giusto, però questa è una comunicazione che avviene anche in un settore distante da quello medico, e l'idea è stata quella di abbinarla a un campo in cui ci sono persone molto sensibili, vero? Sì, i piloti di auto storiche si sono riscoperti molto sensibili alle nostre motivazioni e hanno anche trovato una causa molto nobile per sfoggiare e per cimentarsi con le loro bellissime auto. Bene, parliamo di auto allora. Quali sono queste auto che vedremo il 26 e 27 in provincia di Brescia? Vi ricordo la partenza a Gardone Valtrompia. Sì, le auto che noi abbiamo selezionato sono auto che appartengono fino al terzo raggruppamento XAI, cioè fino al 1961. Abbiamo auto che partono dal 1927, abbiamo per esempio Bugatti, le T37, abbiamo MG piuttosto che Fiat Coppa Oro delle Dolomiti, abbiamo parecchie auto importanti, anche se meno conosciute come le Nardi Blatta, le Armini, abbiamo le Fiat Fortunati Sport. Abbiamo molte, molte auto che sono delle rarità. Abbiamo per esempio molte Harley Silverstone, abbiamo Aston Martin, oltre che numerosissime Porsche. I nostri appassionati e sostenitori, perché noi siamo sostenuti da molti amici che sono appassionati di auto, sapete che Brescia è un pochino il centro delle auto storiche. Certo. Molti dei nostri sostenitori hanno nei garage molte belle auto e le sfoggiano proprio in occasione della nostra corsa. Ecco, se lei dovesse decidere una tappa, un punto particolare in cui consigliare i nostri ascoltatori di venire a sbirciare, quale consiglierebbe? Ma diciamo che la partenza avviene in un ovale molto ampio, per cui a Gardone Valtrompia, presso l'oratorio, c'è la possibilità di ammirare molto da vicino le auto prima della partenza. Altrimenti ci sono delle bellissime visioni delle auto sul lago d'Idro che percorreremo ad Anfo piuttosto che proprio nel paese di Idro. La gara quest'anno si compone di due giornate, il sabato pomeriggio che porta le auto da Gardone Valtrompia fino a Riva del Garda, passando per la Valsabbia ed entrando quest'anno per la prima volta in un'altra regione, cioè il Trentino Alto Adige. Poi da Riva del Garda si va verso la Val Rendena, Tione, e poi si scende la Val Rendena e per poi risalire verso Bagolino, che è un famosissimo paese dove si produce un formaggio famoso al mondo, che è Bagos, e per poi ridiscendere attraverso un passo molto elevato, più di 2000 metri, verso la Valtrompia per l'arrivo ottimo, a Bovegno. Ottimo, ottimo, bellissimo l'arrivo quindi a Bovegno, sempre in provincia di Brescia. 26-27 settembre, trofeo Aido, ci possiamo divertire ma anche fare del bene alle associazioni donatori organi. Grazie davvero all'ingegner Luigi Bernardelli, il presidente della sezione di Gardone Valtrompia. Grazie, a prestissimo. Bene, in bocca al lupo ai piloti e arrivederci presto. Con la sua voce termina anche la nostra trasmissione, che torna puntuale alle ore 21, esattamente fra 7 giorni, sabato sera alle ore 21. Grazie invece a Pietro che mi ha fatto compagnia in regia. Roberto Rasia è rimasto al microfono per voi, vi auguro soprattutto una buona guida.